giornata che vedrà da voi tutti e da noi, con tutta l'ansia del cuore, ora che Roma si protende libera e fiera verso la vita nuova d'Italia, ora che dire che non suoni retorica vuota, gioco di sillabettate nelle frasi usate, un intero panorama di memorie e di affetti, di nostalgia e di ricordi, si snoda davanti allo sguardo. Perché alla fine è pur vero, non è retorica, dire che da 22 anni attendevamo questo giorno.